questo è Jolly Roger, iniziamo questa nostra nuova puntata, puntata che va in diretta dal 68 Village a Parco D'Alenti, puntata speciale, siamo all'interno dell'N Festival, un'iniziativa organizzata dalla cooperativa Idea Prisma 82 con il patrocinio del municipio, il 68 Village e chi più ne ha più ne metta, e ci siamo anche noi, anche ieri siamo stati partecipi non solo dell'iniziativa, abbiamo realizzato delle interviste che passeremo, creeremo un podcast apposta e iniziamo questa nostra puntata in diretta appunto qui dal 68 Village. Passiamo il primo pezzo e poi iniziamo la nostra consueta diretta con le nostre ovviamente rubriche. Primo pezzo per noi. Torniamo in diretta, siamo qui al 68 Village, appunto dell'iniziativa N Festival, parco che ospiterà un'estate romana che è appena iniziato, le temperature si fanno sentire, è caldo finalmente, l'abbiamo aspettato tanto, quindi inutile lamentarsi. E iniziamo questa puntata con la consueta rubrica della nostra amica Alice, quindi i suoi consigli sulla bellezza e poi ovviamente sulla mobilità di Roma, quindi i vari mezzi pubblici, ATAC, metro e compagnia bella. Passo il mic alla nostra amica Licetta. E Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di una acqua micellare della Garnier, della Skin Active. Questa acqua micellare ha una nuova, di un, di, diciamo, di una nuova confezione. Dentro contiene anche una vitamina che si chiama EC, è la vitamina C. Quindi è giusta per le pelli spente, che non è per le pelli come accese, chi c'è la pelle accesa, luminosa. E diciamo che per la pelle spenta e grigia serve a struccare e detergere, illuminare, molto uniformare la pelle. Ed è anche molto, posso dire che è anche ipoallergenica, che è anche allergico alla pelle che magari si gratta un po' di più come me, che è Alice, dando questo consiglio su questa cosa, ma è un prodotto che possono usare sia gli uomini che le donne oppure è una cosa prettamente femminile? Perché guarda, tu diciamo. parlavi di un discorso di struccante, quindi è una cosa prettamente femminile? Diciamo, quest'acqua micellare va bene un po' per tutti, perché noi ci grattiamo sempre quando è sempre, perché Allora, ci buon stanno i pomeriggio a giri, tutti. Oggi quando fa giornata caldo, diciamo, iniziata ci sono le zanzare, ci pungono, giornata. quindi Quindi, allora, è io normale. sono il tesser di questa rubrica. Guardami bene. Ne ho bisogno? Ne hai bisogno. Perfetto, quindi tra qualche minuto per Anche quale motivo? Oltre che chiaramente non per la bellezza. e soprattutto perché è ipoallergenica e Si quindi è adatta approfitterà anche a tutti e dell'esperienza va interna passata di con un alcuni dischetto di esperti cotone proprio su tutto il viso, per far sì occhi e che labbra mattina e sera, persone che hanno senza voglia risciacquare. anche di Però va reinserimento bene o anche per i voglia punti di neri, mettersi in gioco, insomma, soprattutto. possono farlo. Mi stai dicendo che ho dei punti neri che devo trattare con questo prodotto? Esatto. Ah, grazie, quindi va bene così. Senti, una domanda, dove si può comprare questa? Allora, Possiamo dire il nome? si può comprare. Allora, c'è un negozio, bisogna cercare bene. Bisogna cercare su internet il nuovo negozio di creme. Te lo ricordi per caso come si chiama questo indirizzo internet dove hai comprato, suppongo, questa crema? Quest'acqua Ah, micellare. scusami. Allora, l'acqua micellare si compra o al negozio nuovo, questo qua che sta a Porta di Roma, Invito tutte le persone che che sono sta a già Porta di Roma, all'interno che è del nuovo, c'ha parco a un nome visitare questo corto, prima corto, il laboratorio corto. di Mi archeologia sembra che lo sappiamo, e non anche il lo sappiamo laboratorio di tutti ancora, però. orticoltura che Che hanno hanno realizzato realizzato dei prodotti ad hoc proprio fatti per tipo. la giornata di Vabbè, non è un oggi. problema. Ha un costo Suonata, che molto ce lo interessante, possiamo la voglio sapere più permettere volte nel oppure corso della giornata. costa Diciamo abbastanza? qualcosa Tutti quelli costano che entrano tanto e nel qualcuno parco, costano di meno. invitiamoli Ok. a vedere con i Senti, loro allora occhi tutto vogliamo quello che hanno preparato passare al un pezzo laboratorio musicale e poi ritorniamo in del diretta e centro parliamo riabilitativo dei Tangram mezzi pubblici di con i Roma. ragazzi e gli Sì. operatori perché Ok. hanno Allora, passiamo prodotto un delle cose pezzo, visto molto che comunque è molto stato appunto alla interessanti. ricorrenza Siamo qualche qui giorno oggi fa, per il farvele 2 di giugno, scoprire e per passiamo presentare quello che è questo stato nuovo anche prodotto celebrato qui che a abbiamo fatto 68 tutto Village, cioè l'anno Rino Gaetano. passato vari passaggi. Pensioni. gioca d'azzardo, chi gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Sei poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na, na, na, na, na, na. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di santo, chi tutte le sere. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Oggi puntata speciale, ricordiamo che siamo al 68 Village, visto che è passato appunto un pezzo di Rino Gaetano. Salutiamo il nostro amico Daniele Savelli, che partecipa anche lui, ha partecipato attivamente a quello che è stata, quello che è N Festival. Torniamo con la nostra amica Alice, che ci racconta, ci darà alcune informazioni sulla mobilità di Roma, insomma, visto che appunto inizia l'estate, molte corse che erano scolastiche si rallentano, quindi pochi mezzi pubblici, ma sentiamo cosa ci dice la nostra amica Alice. Diciamo che adesso che è giugno, siamo a giugno, hanno riaperto gli operai hanno riaperto un passaggio pedonale della stazione metro B Piramide, che è una linea della metro Mare e la stazione Ostiense. Oltre a questi lavori sono stati fatti anche lavori per migliorare i pavimenti e i percorsi per non vedenti. Quelle persone che non vedono, che sono i vedenti, i non vedenti. Perfetto, quindi ringraziamo Alice. Volevi dire qualcos'altro? Allora, quello che vi voglio dire è, in generale, i lavori di strutturazione della ferma d'Atac, volevo dire che hanno riaperto questa cosa, perché hanno riaperto la, diciamo, una specie di strada pedonale che sta dentro la metro B Piramide, che è un, tipo una specie di tunnel piccolino, tunnel piccolino a Lucia Chiara. È un tunnel piccolino, cioè, che arriva, è un passaggio pedonale. Perfetto, quindi diciamo che finalmente sì, possono utilizzare delle cose che sono importanti per alcune persone. Perché per alcune persone non si prende neanche la metro, nella metro c'è la metro che arriva, però a piedi ci si può arrivare con il treno, ma ci si può arrivare ovviamente anche con il treno, con la metro, ma con la ma a piedi è anche più veloce. Perfetto, noi siamo persone che tengono a Roma pulita e all'ecologia, quindi ci muoveremo a piedi. Detto questo, passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta dal 68 Village, che ringraziamo per l'ospitalità e per la piacevole iniziativa. E sei cresciuta senza nessuno che ti ha chiesto scusa, nella questura, nella famiglia, neanche la fortuna. Campione di sopportazione, e mandi giù le illusioni finché non senti neanche più il sapore. Na, na, na, na. Ti fai ruvida come il paesaggio, sai che tutti sono di passaggio, però dentro lo vuoi così tanto, tanto. Na, na, na, na. Un po' d'alcol e di polverina per cauterizzare la ferita. Stai tremando perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo ora, ore, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo? Ora, ore, chissà com'è. Sei giù d'umore, anche se non lo fai vedere. Non sei all'altezza della situazione, lo credi tu. Sorride come, perché fosse per me. Io ti darei una laurea d'onore. Na, na, na, na. Mi chiedo come, come fai? Sai galleggiare tu sopra il dolore. Io non so farlo. Riuscire ad amare ancora ed essere grata. Non ti sei fatta portare via il cuore. Na, na, na, na. Come hai fatto solo a perdonarla? Come non sei diventata matta? Ti stupisci che tu ancora abbia rabbia, rabbia. Giochi coi capelli tra le dita, ora che puoi essere bambina. Una laurea perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo ora, ore, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo ora, ore, chissà com'è. Tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte. E questo è Jolly Roger, torniamo nuovamente in diretta, cambio al mic, si sussegue, abbiamo dato precedenza all'unica donna del programma ma che parla al microfono. Passiamo al nostro amico Luchino, oggi ufficialmente finiscono le scuole e c'è anche il nostro amico Marco che ci è venuto a trovare, dopo sarà in compagnia del nostro amico Matteo, Chip e Chop. E niente, allora passo il mic direttamente a Luchino che ci racconta un po' di cosette, tra cui finalmente la chiusura di quest'anno scolastico. Buonasera a tutti, sono Luca, vi racconterò di

E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, siamo in diretta dal 68 Village, lo ripeto nuovamente, e ora ripasso il mic al nostro amico Luchino che ci farà le sue consuete rubriche, cioè la sua consueta rubrica sulle battute ovviamente. Qual è il fiore che si esprime a gesti? La mimosa. Quest'anno la maggior parte di voi verrà bocciata. Prof, ci sta dicendo che lei non sa fare il suo mestiere? Sapete a cosa giocano due alberi? A ramino. Grazie, ora tra poco passeremo il mic alla nostra, al nostro amico Matte e Marco. Mimos, la più brutta canzone che avete lanciato? Fabri Fibra. Non è vero. Guarda! Guarda! Antichi. L'Italia è piccola. Non avrei creduto a tutto, era tutto finto. Era tutto finto. Io neanche fumo più, ho smesso. Bugiardo. Bugiardo. Con questa faccia da bugiardo. Era tutto uno scherzo, sono un bugiardo. La tua ragazza ha capito, sono un bugiardo. Per come parlo, per commentarlo. Ho uno stile di vita anti Monte Carlo. Capitan Arlo del rap in ballo. Mi vesto giallo come il catarro. Oh no, adesso ti lamenti per il testo. Poi per la base perché sembra un poliziesco. Io sono zero se mi paragoni al resto. Vorrei tuo conto in banca, DJ Francesco. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Io vengo in pace, bugiardo. Non mento mai, bugiardo. Non sono capace, bugiardo. Non ce la fai, bugiardo. Ho mille amici, bugiardo. Non voglio guai, bugiardo. Tu sei tra questi, bugiardo. Ma non lo sai, bugiardo. Fibra è conosciuto come un gran bugiardo. Alle assemblee d'istituto parlavi in sardo. Non mi presento in pubblico, ci mando un altro. Non mi assomiglia grasso, è un po' più alto. Tengo ritmi serrati in 20 metri quadrati. Ho la morte negli occhi e tengo i giorni contatti. Tocco temi scontati, non chiamatemi artista. Io ti creo un altro mondo, lo sa anche il mio analista. La realtà mi spaventa da ogni punto di vista. Il mio sogno in verità era fare il giornalista. Ho rap emodrammatico da crisi domestica. In camera c'ho un batter, a letto un'anoressica. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Io vengo in pace, bugiardo. Non mento mai, bugiardo. Non sono capace, bugiardo. Non ce la fai, bugiardo. Ho mille amici, bugiardo. Non voglio guai, bugiardo. Tu sei tra questi, bugiardo. Ma non lo sai, bugiardo. Voglio sentirmi supersonico. Da un'occhiata al mio tasso alcolico. Non ho un soldo ridotto al lastrico. Entri in banca con un calastico. Tutti sulle mani perché questa è una rapina. Io sono Fabri Fibra, ho appena ucciso la vicina. E dato fuoco alla cucina con un litro di benzina. È crollata la palazzina. Vai attenta ragazzina. Oh no, adesso ti lamenti per il testo. Poi per la base perché sembra un poliziesco. Io francamente non sopporto neanche il resto. Se vuoi insultarmi fallo adesso, il cuore è questo. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Tu mi porti sfiga. Tu mi porti sfiga. Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Non mento mai, bugiardo. Non sono capace, bugiardo. Non ce la fai, bugiardo. Ho mille amici, bugiardo. Non voglio guai, bugiardo. Tu sei tra questi, bugiardo. Non lo sai, bugiardo. Io vengo in pace, bugiardo. Non mento mai, bugiardo. Non sono capace, bugiardo. Non ce la fai, bugiardo. Ho mille amici, bugiardo. Non voglio guai, bugiardo. Tu sei tra questi, bugiardo. Non lo sai, bugiardo. E ritorniamo in diretta, nel frattempo sul palco si alternano diversi interventi, noi siamo di lato al parco, qui al 68 Village, a Parco Talenti, e passo il mic al nostro amico Matteo che fra le tante cose settimana prossima e quella dopo non sarà presente perché sfortunatamente andrà in vacanza, quindi sfortunatamente. Io dito. Perfetto, e quindi appunto c'è anche il nostro amico e fido guerriero Marco che ci è venuto a trovare. Ciao a tutti. Insomma, Chip e Chop, anche questa puntata ci sono. Non spoileriamo niente, però appunto Ciccio, allora raccontiamo un po' di cosette. Oggi abbiamo detto andiamo un po' così, quello che ci viene in testa, diciamo. Racconto e partire europei. Allora sì, allora fra due settimane inizieranno gli europei, però prima degli europei volevamo dire un'altra cosa che è importante, insomma ne abbiamo parlato anche in diverse puntate quest'anno, abbiamo parlato di Sinner. E Sinner per me forte perché ho capito tira Sinner, ma per me piatura molto Piero. Esatto, confermiamo che anche oggi sta dando dimostrazione di grandi tennis ed è da lunedì, così dicono i grandi comunicatori che sono i giornalisti, diventerà il primo tennista al mondo, cioè primo tennista italiano dopo anni e anni di figure che si sono alternate nel mondo del tennis, finalmente abbiamo una rappresentanza italiana, noi la sosteniamo perché comunque è un atleta che è diverso da altri atleti, ne abbiamo parlato, ha delle modalità che piacciono molto anche a noi, cioè quello di stare, di concentrarsi su quello che è lo sport, non dedicandosi a una vita sregolata come magari fanno alcuni atleti, ma nessuno critica gli atleti che fanno una vita sregolata, però ci piace perché comunque ha un approccio allo sport che è un approccio sano. E detto questo, inizieranno gli europei, tu sarai in Egitto. E lo sai che in Egitto non si tifa, chi tifa in Egitto? Allora io devo dire a tutti, io ho un villaggio. Stiamo parlando degli europei, quindi parliamo di europei, di calcio. Europei. E non fare rosicare gli ascoltatori che dovranno schiumare giorni e giorni, se non settimane e settimane, per potersi fare mezza giornata de mare. Devo dire, a partire dagli europei, di calcio, perché Italia nemica contro Oddio. Ricordiamo che oltre agli europei ci stanno anche le Olimpiadi, quindi sarà un'estate insegna proprio dello sport a 360 gradi. E europei via, perché ho visto su Sky Sport 1, visto un tennis, perché io visto ma europei, perché per me chi vince? Andiamo subito con la domanda diretta e lapidaria, chi vincerà questi europei? Per me Italia. Perfetto, secondo me no, però va bene così, quindi chi vuole scommettere può iniziare a scommettere, secondo me una papabile vincitrice degli europei potrebbe essere o la Germania o l'Inghilterra. Per me la Germania forte, Piero, ma Germania forte. Ok, andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo qui in diretta. Qualche volta il mondo sembra così freddo e stanco, negli sguardi che tu incontri non c'è molto per te, ma se capita che il vento arrivi tra le foglie, puoi fermarti per sentire un po' la musica che fa. Qualche volta c'è chi ride perché sei nel fango, e chi gode a farti male per il gusto che c'è. Può succedere che un diavolo ti stia tentando, puoi trovare sempre un angelo che poi ti salverà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Un bel giorno arriverà da te la felicità, una luce che si poserà sulle cose spente, e se al buio la paura viene lì e ti prende, con il sole del mattino poi ogni fiore si aprirà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Vedrai, tutto passa e va, sabbia e cieli blu, cose da decidere. E per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Questa è per chi ha freddo e per chi è solo, chiude gli occhi e non lo sa perché. Questa è per chi ha perso e non è un gioco, questo è per il bene che ho per te. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Parlavamo appunto con l'amico Ciccio di quello che sono gli avvenimenti sportivi di questa lunga estate, che iniziano con gli europei e proseguiranno con le Olimpiadi. Ci sarà di mezzo anche il calciomercato, visto che appunto di calcio non ne abbiamo mai a sufficienza. Quindi vado direttamente con il nostro amico Matteo. Allora, parliamo anche del tempo, è ufficialmente partita l'estate e quindi ci avviciniamo a quello che potrebbe essere anche il primo weekend di tutti al mare, giusto Ciccio? Come sarà il tempo questa settimana, questo weekend? Per la giornata domani mattina, per la giornata e pomeriggio, per la giornata e la sera, per la giornata e la domenica per la giornata, perché io non da me è chiusa la piscina, perché no è chiusa la piscina, ma noi andiamo con un bellissimo piede di porco ad aprire la piscina di Matteo, e sabato e domenica tutti in piscina. Scherziamo. Quindi Ciccio, farà caldo, farà, le temperature come sono? Ma caldo, Piero. Fa caldo, quindi che possiamo fare? Siamo a casa, possiamo andare al mare, tutti al parco a rinfrescarci. Dici un po'. A mare, a bambano. Oh, bravo Ciccio, a fa il bagno, magari un intermezzo di una sana fritturina di pesce che non fa mai male. Magari prima ci diamo anche un bello spaghettino con le vongole che a noi ci piace. E Ciccio, allora siamo arrivati a conclusione della puntata. Noi ci vedremo fra due settimane e poi penso che stopperemo anche questa terza conclusione di terza stagione. Ci avviciniamo piano piano a quello che sarà a breve, quindi da settembre in poi, l'avvicinamento alla nostra 100ª puntata. Ovviamente seguiteci su vari canali social, così sarete sempre aggiornati e riascolterete i podcast di questa puntata e anche delle interviste che abbiamo realizzato qui al 68,